America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Direi che oggi chiudiamo con le tematiche un po' più, tra virgolette, serie, l'economia, la politica, per affidarci a qualcosa di più leggero, e cioè la moda. È partita la settimana scorsa la grande passerella della moda a New York con uno sviluppo, e cioè che i padiglioni di Bryant Park, dove dal 1993 abbiamo visto centinaia di passerelle, hanno chiuso i battenti e il grande evento si è trasferito a Lincoln Center. In qualche modo la moda ha scelto di dialogare con i palazzi della cultura. Finora ci sono state circa 100.000 persone, tra acquirenti, stilisti, giornalisti, addetti ai lavori e celebrities, che hanno partecipato a questi eventi. Per sancire l'importanza di questa svolta e di questo avvio al Lincoln Center della stagione della moda qui a New York, è intervenuto persino il sindaco Michael Bloomberg, che la settimana scorsa, pensate, è arrivato per primo all'apertura con la linea 1 della metropolitana, che per l'occasione era stata ribattezzata Fashion Line. Bloomberg ne ha approfittato per parlare di nuovo l'economia. Lo avevamo visto una decina di giorni fa quando aveva inaugurato Italy, aveva detto che questa nuova iniziativa gastronomica italiana avrebbe portato una gran quantità di posti di lavoro, circa 200-300 nuovi posti di lavoro per la città di New York, e continua a battere il sindaco sull'economia, ovviamente in questo caso molto più in grande, perché ci ha detto, quando l'abbiamo visto in una di queste inaugurazioni, che la filiera della moda impiega 170.000 persone nella città. Ebbene, questo evento ha un impatto sull'economia locale di ben 750 milioni di dollari. Hanno dominato da un punto di vista di presenza e così di attenzione da parte anche della stampa gli asiatici, cioè i designer di origine cinese, giapponese, ma soprattutto direi cinese. Per esempio Richard Chai, Jason Yu e il 26enne Alexander Wang, che è giovanissimo. Poi ce ne sono altri, per esempio Takun Panichagul, Prabal Gurung, Philip Lim, Derek Lam, qualcuno thailandese, qualcuno vietnamita, qualcuno di Taiwan come Jason Wu, che ormai è una star dopo che Michelle Obama ha scelto di vestirsi con lui per la cerimonia dell'insediamento del marito alla Casa Bianca. 10 decisions shape your life. You'll be aware of 5 about. 7 ways to go through school. Either you noticed or left out. 7 ways to get ahead. 7 reasons to drop out. Questi invece che avete sentito sono gli Strokes, che hanno suonato domenica al party di Tommy Hilfiger al Metropolitan Opera, subito lì, proprio vicinissimo al Lincoln Center, dove appunto ci sono state quest'anno le sfilate. E tra le mille feste che ci sono state nel Meatpack District, al Don Hills, c'è stata la filantropa 29enne Dasha Zhukova, editrice del magazine Pop. E come può permettersi, vi domanderete voi, una 29enne di essere già filantropo? Beh, molto semplice, perché è figlia dell'oligarca russo Alexander Radkin Zhukov ed è compagna di Roman Abramovich, che tra l'altro è il proprietario del Chelsea Football Club ed è il quarto uomo più ricco della Russia. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Feel Just Like a Child di Devendra Banhart è la canzone preferita dello stilista Karl Lagerfeld. Lagerfeld è un anziano rispetto agli asiatici di cui vi parlavo prima, perché da oltre un quarto di secolo firma tutti i capi di Chanel, cercando sempre di interpretare quelli che sono poi gli umori del nostro tempo. E dunque grande festa a Chanel Soho House al Meatpacking District, uno degli eventi che non si potevano mancare. Oggi invece grande attesa per una festa alla Galleria d'Arte di Gagosian. C'è anche una novità tutta italiana a queste sfilate di New York. Stefano Tonchi è diventato direttore di WWE, il più importante mensile di moda in America, direi dopo Vogue sicuramente, e non c'è un altro italiano che occupi una posizione così importante nei media americani. Ne abbiamo approfittato per fargli qualche domanda. Stefano. Si dice che gli asiatici in qualche modo abbiano trionfato in questa stagione. È vero? Gli italiani che fine hanno fatto? Più che gli asiatici, in questo momento è un momento molto internazionale, quasi tutti questi ragazzi sono praticamente, se non nati, educati negli Stati Uniti, per cui sono americani a tutti gli effetti. Il fatto che molte delle collezioni poi siano prodotte in giro per il mondo e soprattutto in Asia è una realtà ormai che accomuna un po' tutte le brand. Ce ne sono di stilisti italiani, però non hanno trovato molto spazio nel sistema italiano, per cui hanno funzionato meglio all'estero. Ecco, qual è l'elemento dominante secondo te da queste sfilate? C'è grande aspettativa, come al solito, per Marc Jacobs, per la sua sfilata, e nulla, io personalmente aspetto molto anche la presentazione di Tom Ford, il ritorno di Tom Ford alla moda con una capsule, una collezione capsula che presenta domenica sera. Stefano, tu hai preso la guida di W e quindi sei di fatto diventato uno dei giornalisti italiani più influenti in questo paese. Ecco, nella tua introduzione del primo numero, no, quello di settembre, hai parlato di stile. Che cos'è lo stile oggi? Stile, moda, spesso si sovrappongono, talvolta divergono, la moda è qualcosa che si consuma, lo stile è qualcosa che resta, attraverso il tempo, attraverso gli anni. E lo stile di oggi qual è? Lo stile di oggi sono tanti stili, bisogna ognuno trovare, diciamo, il suo, coltivarlo e rimanere fedeli a tutto ciò. Un po' di nostalgia per i magazine del New York Times che hai lasciato dietro di te. Ma il New York Times è stato un progetto molto interessante, ora ce ne sono altri. Bene, grazie a Stefano Tonchi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. A 3 anni di distanza dall'ultimo album tornano gli Iron and Wine con un nuovo disco che uscirà all'inizio del 2011. Si chiamerà Kiss Each Other Clean, baciamoci in modo pulito, e dunque a questo loro rientro dedichiamo la canzone che li rese famosi. Era una cover dei Postal Service, Such Great Heights. Shapes like puzzle pieces from the clay, and true, it may seem like a stretch, but it's thoughts like this that catch my trouble. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.